My strength is entering a new world. Another dimension where the rhythm of life has been slow, but at times tumultuous. It opens up paths unimagined, suspended between the real world and the unchanged, where everything is totally the rules of faith and life and beautiful life. Other times, chaos, such as the rise of the universe, of existence, culture, cultures, such as the thank you. buonasera a tutti, noi siamo i Lament Sky. And I leave my future. Grazie. Yeah. Grazie. Grazie a tutti, davvero, grazie. Grazie a tutti, buonasera. La Via in the Sky per voi, grazie davvero. Onorati, ringraziamo Fabricare, Arum, ragazzi di Aversa. Grazie davvero. Ringraziamo i Lamia in the Sky, grazie per essere venuti a Fabricaria. La prima cosa che voglio chiedere alla Lamia in the Sky è che si tratta di un side project. Voi venite da due band differenti che sono Il Cielo di Baghdad e appunto i Lamia. Com'è nata questa collaborazione? Allora, la collaborazione diciamo è nata abbastanza per caso, diciamo. Abbiamo pensato di inserire una persona che è Nicola Mottola, grande, di cui io nutro grandissima stima come persona innanzitutto e anche come musicista. E abbiamo visto il nostro comune interesse per un certo sound che va dal nord Europa verso l'elettronica nord europea come quella dell'IDM oppure del post rock dei Sigur Rós. Abbiamo cercato insomma di approfondire questo percorso, essendo gruppi che comunque provengono da una realtà anche abbastanza difficili, voglio dire, quali quelle che sono comuni un po' a tutti noi del sud Italia, insomma. È difficile suonare, è difficile riuscire a portare avanti certi tipi di musica, certe sperimentazioni. Allora penso solo attraverso l'aiuto reciproco tra band che comunque vivono con le relative difficoltà, riusciamo comunque a creare qualcosa. Certo, sì. Perché in effetti da voi mi aspettavo delle atmosfere dilatate, cose che avete suonato qui, però il pezzo che c'è invece su MySpace e che è il pezzo che hanno ascoltato le persone che non erano qui è invece una canzone che trova nell'elettronica una soluzione più diretta. Sì. È una melodia a tratti quasi pop. Sicuramente noi non abbiamo mai abbandonato come Lamia innanzitutto la forma canzone della composizione, quindi nonostante i pezzi possano essere in un certo senso sperimentali, riusciamo sempre ad avere come fine quell'elemento melodico e armonico che possa comunque avere un carattere abbastanza universale, voglio dire. Il fine nostro è quello di essere comunicativi al massimo. Quindi cercare sentite comunque di vicini al format della canzone. Sì, sì, questo sicuramente. Certo, il format canzone è arricchito di quella sperimentazione che può essere la ricerca del sound, dei suoni elettronici e elettrici anche, voglio dire. Ecco, questa è una cosa che in effetti mi aspetterei dal Cielo di Baghdad, che è un gruppo che conosco molto bene. Una cosa che mi interessa sapere da voi è: esiste un artista capace di mettervi tutti d'accordo? Qualcuno che piace proprio a tutti e che nel momento in cui viene nominato, certo, ha unanimi consensi tra tutti voi tre? Sicuramente i Radiohead sono il nostro gruppo di maggiore ispirazione, quanto comunque stimati ovviamente da ambedue le formazioni, penso. Giulio, secondo te invece? Scusami se ti interrompo. In Hot Twist. Boh, la butto così perché comunque la forma canzone viene rispettata, però arricchita da elementi diversi, come sono quelli elettronici, quelli di suoni comunque non prettamente appartenenti al pop, inteso come genere, diciamo, di massa. Okay. Però, che ne so, quello è comunque un gruppo che rispetta la forma canzone come principio di comunicazione principale, credo. Okay. Beh, in effetti l'elettronica si è inserita in due gruppi come i Lamia e il Cielo di Baghdad e ne ha sostituito un po' l'impatto del rock. Quando andate a suonare dal vivo non vi manca quella cosa, quell'impatto forte? Ma guarda, riusciamo in un certo senso a compensarlo attraverso comunque il sound delle chitarre oppure con ritmiche anche di batteria elettronica che comunque richiamano molto al rock in un certo senso, a quelle ritmiche proprie del rock anche più minimale, voglio dire. L'energia penso che sia dovuta molto all'intensità dei suoni, quindi penso che si possa essere una rock band anche facendo musica elettronica in un certo senso, cioè ho questa mia visione, non so se sbaglio, però sono molto convinto che la stessa energia possa essere comunque essere trasmessa anche attraverso nuove sonorità, nuove ricerche. Invece vorrei chiedere a Nicola, voi siete nel mezzo di un piccolo tour sostanzialmente, quali sono state le esperienze? Dove siete andati a suonare? Come sta andando? No, nient'altro, abbiamo trovato qualche serata da fare a Cosenza. Abbiamo suonato a Cosenza ieri con i Camera 237, è bello portare in giro un progetto che è nato quasi per caso ed è tutto improvvisato. Cioè, bene o male qualche prova c'è stata, però comunque il tempo delle due formazioni non c'è per organizzare un set fatto nel migliore dei modi. Ti stanno guardando storto i tuoi colleghi? No, perché non c'è tempo e si cerca di accelerare, perché comunque le date c'erano. Va bene, grazie. Ringraziamo Lamy and the Sky. Vi lasciamo al DJ set di contrasto dal Six Day Sonic Madness. Grazie.